Il terzo anello ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Massimo Popolizio legge Le Memorie di Barry Lyndon, di William Thackeray, traduzione di Tommaso Giartosio. Di tutti questi preziosi documenti, tra mia moglie e mio cugino, sia quelli in partenza che quelli in arrivo, feci preparare copie accurate da un mio parente, figlioccio e segretario che ho già ricordato prima, Mr. Redmond Quinn, che era allora il degno amministratore delle proprietà di Castle Lyndon. Si trattava di un figlio di Nora, la mia vecchia fiamma. L'avevo preso con me in uno slancio di generosità, promettendo di provvedere alla sua educazione presso il Trinity College e di aver cura di lui per tutta la vita. Ma dopo il primo anno di università i professori, incaricati di assistere il ragazzo, si rifiutarono di ammetterlo alla mensa e alle lezioni finché non fosse stata pagata la sua tassa di iscrizione. E io, offeso dall'insolenza con cui richiedevano una somma così trascurabile, decisi di togliere alla scuola l'onore di servirmi e ordinai al giovane gentiluomo di far ritorno a Castle Lyndon, dove trovai 100 modi di rendermelo utile. Finché fu al mondo il mio caro piccino, il mio caro Brian, Quinn gli fece da insegnante, almeno per quanto la vivacità di quel povero bimbo glielo permetteva. Ma vi assicuro che ben di rado il mio povero caro Brian andava a disturbare i libri di scuola. In seguito tennei conti di mia madre, oppure copiava l'interminabile corrispondenza con i miei avvocati e con gli amministratori di tutte le mie svariate proprietà. Di sera facevo una partita di picchetto o tavola reale con me e mia madre. Inoltre, essendo un ragazzo piuttosto intelligente, benché di carattere mediocre e volgare, come si conveniva al figlio di un tal padre, accompagnava la spinetta di Milady Lyndon con il suo zufolo, o leggeva con lei libri francesi e italiani, perché sua signoria, Lady Lyndon, aveva una conoscenza erudita di entrambe le lingue, e anche lui aveva finito per impararle alla perfezione. La mia vecchia madre, che si teneva sempre in guardia, si impiperiva a sentirli conversare, non comprendendo una sola parola né dell'una né dell'altra lingua. Mia madre era furiosa quando le si usava e diceva sempre che quei due stavano macchinando qualche piano. E Lady Lyndon usava ogni volta questo stesso metodo per indispettire la vecchia signora. Quando loro tre si trovavano insieme da soli, attaccava discorso con Quinn in francese o in italiano. Della fedeltà di Quinn ero perfettamente sicuro, perché l'avevo tirato su io stesso, coprendolo di favori, e in più avevo avuto diverse prove della sua lealtà. Era stato lui a portarmi 3 lettere di Lord George, scritte in risposta a certe lamentele di Milady, che le aveva poi nascoste sotto la legatura in pelle di un libro mandato in lettura a sua signoria dalla biblioteca circolante. Anche il ragazzo litigava spesso con Milady. Nei suoi momenti di buon umore, lei scimmiottava la sua andatura e nei suoi quarti d'ora di orgoglio si rifiutava di sedere a tavola con il nipote di un sarto. «Per farmi compagnia, mandatemi chi volete, ma non quell'odioso Quinn», mi diceva, quando le proponevo di farlo venire a intrattenerla con i suoi libri e il flauto. Già, perché per quanto fossimo due attaccabrighe, non si deve credere che ci accapigliassimo senza sosta. Di tanto in tanto io ero premuroso con lei. Andavamo d'accordo per un mese intero, talvolta. Poi litigavamo per 2 settimane. Poi lei si chiudeva nelle sue stanze per un mese intero. Tutti questi fatterelli di vita familiare, sua signoria li registrava sempre a modo suo, in quello che chiamava il suo diario di prigionia. Ed è proprio un documento con i fiocchi, a volte scrive. «Oggi il mio mostro è stato quasi gentile con me», oppure «la mia canaglia si è degnata di sorridere», e poi magari esplode in espressioni di odio selvaggio. Ma quando si trattava di mia madre, c'era solamente l'odio. Era tutto un La dragonessa oggi è malata, volesse il cielo che morisse, oppure quell'orrenda vecchia canestraia irlandese oggi mi ha fatto dono di un po' del suo linguaggio da pescivendola, e via così. Tutte espressioni che a leggerle a mia madre o a tradurgliele dal francese o dall'italiano, molte erano scritte in queste lingue, non mancavano di mantenere la vecchia signora in uno stato di furore permanente contro la persona che doveva sorvegliare. E così io tenevo il mio cane da guardia, la chiamavo così, sempre allerta. Per tradurre quelle lingue mi era molto utile il giovane Quinn, perché io avevo solo un'infarinatura di francese. Il tedesco l'avevo saputo bene ai tempi in cui ero nell'esercito, ma di italiano non ne sapevo proprio nulla, ed ero ben lieto dell'assistenza di un interprete così fedele e a buon mercato. Questo interprete fedele e a buon mercato, questo mio figlioccio e parente, su cui avevo profuso tanti favori e altrettanti sulla sua famiglia, in realtà progettava di tradirmi, e per diversi mesi o più fu in combutta con il nemico ai miei danni. Sono convinto che non si fossero mossi prima soltanto perché mancava ancora il grande propulsore di tutti i tradimenti: il denaro, di cui c'era una spaventosa penuria in ogni parte della mia amministrazione. Ma alla fine riuscirono a rifornirsi anche di questo, grazie a quel mascalzone del mio figlioccio, che andava e veniva senza destare sospetti. Così l'intero complotto venne combinato proprio sotto il nostro naso. La carrozza di posta era già stata ordinata e i mezzi per la fuga erano già tutti pronti, quando io non avevo ancora il minimo sentore dei loro intenti. Fu per puro caso che venni a sapere del piano. Uno dei miei minatori aveva una figlia molto graziosa, e questa bella ragazzotta aveva come suo scapolo, così li chiamano in Irlanda, un ragazzo che portava il sacco della posta a Castle Lindon, e Dio sa se non c'erano un bel po' di solleciti di pagamento per me in quel sacco. Questo portalettere raccontò alla sua fidanzata di aver recapitato a Master Quinn, dal paese, un sacchetto di denaro, e aggiunse che Tim, il postiglione, gli aveva detto di dover portare una carrozza di posta giù al fiume a una data ora. E Miss Rooney, che per me non aveva segreti, spifferò tutta la storia e mi chiese cosa stessi architettando. Quale povera disgraziata intendevo portar via nella carrozza che avevo ordinato, corrompendola con il denaro che mi ero fatto mandare dal paese? Allora mi si svelò in un baleno tutto il segreto. Colui che mi ero allevato in seno stava per tradirmi. A un certo punto pensai di acciuffare la coppia mentre stava fuggendo, ficcare loro la testa sott'acqua, sorprendendoli mentre aspettavano di farsi traghettare sull'altra riva per raggiungere la carrozza, e poi prendere a pistolettate il giovane traditore davanti agli occhi di Lady Lyndon. Ma ripensandoci, era assolutamente chiaro che la notizia della fuga avrebbe provocato un mare di chiacchiere per tutta la regione, aizzandomi contro quei maledetti ufficiali giudiziari. Alla fine non me ne sarebbe venuto nulla di buono. Così fui costretto a soffocare la mia giusta indignazione e mi accontentai di stritolare l'infame complotto proprio quando stava per attuarsi. Andai a casa e in mezz'ora, con quattro occhiatacce delle mie, ebbi Lady Lyndon in ginocchio a implorare perdono. Confessava ogni cosa per filo e per segno. Era pronta a garantire con promesse e giuramenti che non avrebbe mai più fatto un tentativo del genere. Dichiarò anche di essere stata decine di volte sul punto di confessarmi tutto e di non averlo fatto per paura che la mia ira si abbattesse su quel povero ragazzino, il suo complice. Era stato proprio lui l'autore e l'inventore dell'intero inghippo. Sapevo che questa affermazione era del tutto falsa, ma preferii fingere di crederle. Così la pregai di scrivere a suo cugino Lord George che, come lei ammise, le aveva fornito il denaro e aveva concertato il piano insieme a loro, di dirgli in poche parole che aveva cambiato idea riguardo la sua progettata gita in campagna, dato che il suo caro marito in quei giorni aveva la salute un po' delicata, lei preferiva rimanere a casa a curarlo. Io aggiunsi un proscritto secco secco, in cui dicevo che sua signoria mi avrebbe dato una gran gioia se fosse venuto a farci visita a Castle Lindon e che ero ansioso di rinnovare una conoscenza che in passato mi aveva tanto soddisfatto. Scrissi anche che l'avrei cercato non appena mi fossi trovato dalle sue parti e che già pregustavo il piacere di un incontro con lui. Deve aver capito benissimo, credo, quello che volevo dire, che alla primissima occasione di mettergli le mani addosso l'avrei passato a fil di spada. Poi ci fu la scenata con quella perfida canaglia di mio nipote e quel giovane reprobo rivelò un'audacia e una forza di carattere a cui ero del tutto impreparato. Quando lo accusai di ingratitudine, mi disse: «Ma che cosa vi devo? Ho sgobbato per voi come nessun uomo ha mai fatto per un altro e lavoravo senza ricevere un penny di stipendio. Siete stato voi stesso a fare di me un vostro nemico, affidandomi un compito che al mio animo ripugnava. Mi avete messo a spiare la vostra sventurata moglie. La sua debolezza è da compatire quanto le sue disgrazie e gli ignobili maltrattamenti che subisce da voi. Nessun essere umano può sopportare di vedere come vi comportate con lei. Ho cercato di aiutarla a sfuggirvi, e se ne avessi di nuovo l'occasione, lo rifarei, e questo ve lo dico in faccia. Quando mi offrii di fargli saltare le cervella per la sua insolenza, rispose: «Uccidere l'uomo che una volta salvò la vita a vostro figlio e che stava ancora cercando di tenerlo lontano dalla rovina e dalla perdizione verso cui lo portava un padre malvagio, quando un potere pietoso intervenne a sottrarlo a questo luogo di delitti. Vi avrei già lasciato da mesi, ma speravo di trovare un'occasione per liberare quell'infelice signora. Il giorno in cui vi vidi batterla, giurai che avrei fatto un tentativo. Oh, uccidetemi! Voi che fate il bullo con le donne, mi ammazzereste se ne aveste il coraggio, ma vi manca il fegato. Perfino i vostri servi mi preferiscono a voi. Provate a toccarmi e insorgeranno, vi manderanno sulla forca come meritate». Questo bel discorsetto lo interruppi tirando in testa al signorino una bottiglia d'acqua che lo stese all'istante. Poi me ne andai a riflettere su ciò che mi aveva detto. Era vero che quel tipo una volta aveva salvato la vita al povero piccolo Brian. Il bambino poi gli era rimasto teneramente affezionato fino al suo ultimo giorno. «Sì, buono con Redmond, papà», erano state quasi le ultime parole che aveva pronunciato. E io avevo promesso al povero bimbo sul suo letto di morte che avrei fatto ciò che mi chiedeva. Beh, era anche vero che se l'avessi sistemato per le spicce, la gente di casa non sarebbe stata troppo contenta, perché era riuscito a diventare il loro beniamino. Io invece, per quanto mi sbronzassi spesso con quei furfanti e li trattassi con molta più familiarità di quanto non facciano di solito gli uomini del mio rango, sapevo che per qualche motivo non mi erano affatto affezionati. Quei mascalzoni stavano sempre a mormorare contro di me. Ma avrei potuto risparmiarmi il disturbo di soppesare il suo destino, perché il signorino mi tolse di mano la possibilità di disporne e nel modo più semplice del mondo. Appena tornato in sé, si lavò, fasciò la testa, prese il suo cavallo dalla scuderia e, dato che era del tutto libero di andare e venire dalla casa e dal parco a suo piacere, scomparve senza il minimo impedimento. E lasciato il cavallo giù all'imbarco, se ne andò via con la stessa carrozza di posta che attendeva Lady Lindon. Per parecchio tempo non lo vidi più e non sentii nemmeno parlare di lui. Adesso che era fuori di casa mia, non lo ritenevo più un nemico molto preoccupante. Le arti sottili di una donna sono tali che credo che alla lunga nessun uomo, nemmeno Machiavelli in persona, potrebbe eluderle. I perfidi piani di mia moglie erano stati sventati grazie alla mia previdenza e alla testimonianza di documenti di sua mano. La faccenda mi aveva dunque fornito ampie prove della sua naturale doppiezza e del suo odio per me. Ma sta di fatto che lei riuscì poi a ingannarmi lo stesso, nonostante tutte le mie precauzioni e la vigile assistenza di mia madre. Se avessi seguito i consigli di quella buona signora, che per così dire fiutava il pericolo da molto lontano, non sarei mai caduto nella trappola che mi fu tesa. Era stata architettata in modo da aver successo proprio in ragione della sua semplicità. Il rapporto che legava Milady Lyndon a me era di tipo tutto particolare. La sua vita trascorreva in una specie di strampalato alternarsi di amore e odio nei miei confronti. Se io ero ben disposto verso di lei, come qualche volta mi accadeva, era pronta a tutto pur di guadagnarsi ancora di più la mia benevolenza. E nell'esprimere il suo affetto era assurda e sfrenata quanto in altri momenti nel darmi prova del suo odio. A giudicare dalla mia esperienza del mondo, non sono mica i maritini deboli e accomodanti quelli che ricevono più amore. Oh, sono convinto che le donne gradiscono un po' di caratteraccio e che non gli dispiaccia un marito che esercita la sua autorità con un certo piglio. Avevo instillato in Milady un tale terrore di me che quando le facevo un sorriso per lei si schiudeva un'era di felicità. A un mio cenno accorreva facendo le feste come un cagnolino. Ricordo come, nei pochi giorni che trascorsi a scuola, quegli ignobili codardi dei miei compagni si mettessero a ridere al minimo scherzo del maestro. Lo stesso accadeva al reggimento ogni volta che quel bullo del sergente era d'umore allegro. Non c'era recluta che non sfoggiasse un gran sorriso. Ecco, un marito saggio e risoluto farà in modo che sua moglie sia soggetti alla stessa disciplina. E io avevo portato la mia nobile moglie a baciarmi la mano, sfilarmi gli stivali, correre di qua e di là per me come una serva e in più a godersi quei servizi come un giorno di vacanza, se io ero di buon umore. Beh, forse confidavo troppo nel prolungarsi di questa rigorosa obbedienza, dimenticando che proprio l'ipocrisia che ne fa parte può venire esercitata in un modo molto meno gradevole, allo scopo di ingannarvi. Dopo l'insuccesso della sua ultima avventura, che mi fornì infinite occasioni di punzecchiarla, c'era da aspettarsi che io tenessi gli occhi ben aperti per scoprire quali fossero le sue reali intenzioni. Ma lei riuscì a fuorviarmi con un'arte della dissimulazione davvero ammirevole e mi mise a nanna, infondendomi una fatale tranquillità riguardo ai suoi propositi. Un giorno che la prendevo in giro, chiedendole se voleva di nuovo andarsene in barca, se aveva trovato un altro spasimante e così via, all'improvviso le scoppiò in lacrime e afferrandomi la mano gridò con passione: «Barry, sapete benissimo che non ho mai amato altri che voi. Sono mai stata tanto disperata che una vostra parola gentile non mi rendesse felice, tanto furiosa che la minima offerta di pace da parte vostra non mi riportasse al vostro fianco. Non vi ho dato una prova sufficiente del mio affetto, affidandovi uno dei primi patrimoni d'Inghilterra. Mi sono mai spazientita, vi ho mai rimproverato per come l'avete sperperato. No, vi amavo troppo, e troppo teneramente. Vi ho sempre amato. Dal primo istante in cui vi ho visto, mi sono sentita irresistibilmente attratta verso di voi. Vedevo bene i vostri difetti e tremavo per la vostra violenza, ma non potevo fare a meno di amarvi. Vi ho sposato pur sapendo che nel farlo suggellavo il mio destino. L'ho fatto a dispetto della ragione e del dovere. Che sacrificio volete da me? Sono pronto a fare ogni cosa purché mi amiate, oppure Se questo non è possibile, mi trattiate almeno con gentilezza. Beh, quel giorno ero particolarmente di buon umore e così ci fu una sorta di riconciliazione tra di noi, benché mia madre, sentendo quel discorso e vedendo che diventavo più docile con sua signoria, mi mettesse solennemente in guardia dicendo: «Quella sfacciatella è furba, sta pur certo che si è messa in testa qualche altro intrigo». La vecchia signora aveva ragione. Avevo ingoiato l'esca che sua signoria aveva preparato per acchiapparmi e con facilità, come un gliozzetto, abboccò all'amo. Massimo Popolizio ha letto Le memorie di Barry Lyndon di William Thackeray a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Riduzione di Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.